nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 4 aprile, il sole in regione sorto alle 6.42, tramonterà alle 19.39, la luna è calante. Buongiorno da Armando Mucchino che vi augura buona Pasqua assieme a tutta la redazione di Vita nei Campi. Da sempre l'agricoltura è legata al mondo dei miti e alla loro trasformazione in rito. La Settimana Santa e la Pasqua sono momenti cruciali nel calendario agrario per il rinnovarsi di questi legami. Ne parliamo nel servizio di apertura, per passare poi al nuovo piano europeo di sviluppo per l'agricoltura biologica e al ruolo e all'importanza delle sostanze azotate nell'uva. Quali e quante sono le varietà di patate che si coltivano anche da noi? Ne parliamo nello spazio che dedichiamo all'orticoltura. A seguire, per la rubrica dei prodotti tipici, il riso coltivato, una volta, in Friuli Venezia Giulia. Per non perdere la tradizione ci sarà poi una ricetta di pane ripieno, un classico per il picnic di Pasquetta, andamento dei mercati, previsioni del tempo, con una breve nota di climatologia locale, il proverbio friulano della settimana, chiudono la puntata. La settimana che si è appena conclusa, sfociata oggi nella Pasqua, da sempre è stata santa e magica, e tanti miti sfociati poi nel rito si rinnovano in agricoltura. Walter Colle, antropologo e studioso della realtà friulana, ci fa un quadro di questi giorni. Pasqua e la settimana che la precede è uno dei momenti più importanti e strategici del calendario. È una festa mobile. La sua scadenza è determinata infatti da una formula che coniuga il ciclo lunare con quello solare. È la prima domenica dopo il plenilunio, dopo l'equinozio di primavera. Da sempre questo momento è simbolicamente rappresentato in vari modi. Nella numerologia, ad esempio, Pasqua arriva dopo 40 giorni di quaresima, come 40 sono stati i giorni del diluvio universale, che è terminato solo con l'apparire di una colomba che portava nel becco un ramoscello d'ulivo. Guarda caso, colomba e ulivo, simboli di questo momento così importante che è Pasqua. Ma è la natura che rivela tutta la sua potenza nel rinascere del ciclo annuale. E la cultura contadina ben conosce il valore di questa giornata e ne ricava insegnamento, ne sa sfruttare la potenzialità nel rispetto di una simbologia atavica. Insegnamento ripetuto per generazioni, senza che ci sia poi in fondo una qualche spiegazione di tipo scientifico. Ad esempio, a partire proprio dall'ulivo benedetto la Domenica delle Palme, che viene conservato per un anno intero e usato all'occorrenza bruciandolo nelle giornate di cattivo tempo per scongiurare fulmini o grandine. Oppure viene usato per benedire un familiare defunto nell'anno, o assieme delle braci sul badile posto sotto le mammelle delle mucche a preservare e favorire il latte. Che dire poi dei germogli che in questi giorni vengono messi a dimora in vasi con poca terra e al buio, che con i primi tepori primaverili crescono senza quasi radici e pallidi, per assenza del processo clorofiliano, quasi esangui come il Cristo sulla croce, e vengono usati proprio per adornare il sepolcro, nelle sacre rappresentazioni. Tradizione questa ancora parzialmente viva qua e là in Friuli oggi, ma testimoniata fino dall'antica Grecia, dove venivano chiamati giardini di Adone. Al di là dell'uso simbolico delle piante, è significativa in questa settimana la conoscenza contadina del potere della natura, ed ecco che il sapere popolare ci dice che gli ortaggi migliori sono quelli seminati il Venerdì Santo, così come la semina dell'erba medica deve venire il Giovedì Santo, immediatamente dopo il Gloria. L'intera settimana santa poi è favorevole per piantare le viti, ma addirittura meglio se fra il Gloria del giovedì e quelle del sabato. Un mare di indicazioni che ormai si rintracciano più nella memoria che nella pratica, tutte comunque a indicare come la luna influisce sull'uomo, gli animali e soprattutto sulla natura. E tutto ciò anche contro ogni divieto cristiano di lavorare la terra il Venerdì Santo, ma la storia ci racconta che dietro ad ogni tabù si cela qualcosa di incontrollato che si vuole nascondere. Si leggono ad esempio i vari processi di inquisizione contro donne e uomini considerate streghe o contatto col demonio solamente perché capaci di usare le risorse della natura per curare. E così oggi, mentre festeggio anch'io bevendo un bicchiere di vino che mi piace pensare imbottigliato il Venerdì Santo, naturalmente purché non faccia cattivo tempo o non tiri vento, ricordo mio nonno contadino che cercava di capire l'evolvere del tempo scrutando il cielo, guardando la luna, le stelle, ascoltando il vento, sentendo l'aria, e osservo mio figlio che per capire che tempo fa nemmeno si affaccia alla finestra, ma consulta un'app sul suo smartphone. È vero che la scienza è scettica, se non addirittura negazionista, rispetto alle influenze lunari sulle semine e i raccolti, e a me in questo momento non interessa alimentare questo dibattito. Osservo solamente che stiamo perdendo un rapporto ultramillenario con la Terra, i cicli della natura, e abbiamo disimparato a comprendere i momenti del calendario, che ancora, e solo in parte, possiamo riconoscere solo nella nostra tradizione contadina. C'è un piano di azione europeo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, ce lo spiega e commenta Cristina Micheloni. Il 25 marzo il commissario europeo all'agricoltura ha finalmente varato il nuovo piano d'azione europeo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Dico finalmente perché dopo l'inversione quasi a U del Parlamento europeo sul Green Deal e il Farm to Fork, il patto verde e la strategia dal campo alla tavola per parlare come mangiamo, la discussione sui contenuti è stata piuttosto accesa. Che cosa dice questo piano d'azione? Essenzialmente prevede tre macroazioni. La prima, consolidare la fiducia dei cittadini europei nei prodotti biologici e agevolare lo sviluppo del loro consumo. Come? Tramite il rafforzamento dei sistemi di certificazione e verifica, il sostegno all'utilizzo dei prodotti bio nella ristorazione collettiva, non solo quella scolastica, ma anche quella aziendale piuttosto che quella ospedaliera. La riduzione della tassazione, ovvero dell'IVA, sui prodotti bio. Non si parte affatto male, considerando che in 10 anni il mercato europeo del bio è cresciuto del 145%, dai 18 miliardi del 2009 ai 141 del 2019. Secondo punto, aumentare la superficie coltivata in bio, ma anche favorire la strutturazione di filiere locali, che valorizzino il prodotto agricolo bio sia nei circuiti locali, appunto, ma anche su filiere più lunghe e cosmopolite. Anche qui non si parte male, considerando che già ci sono 14 milioni di ettari coltivati in bio nell'Unione Europea e che in Italia già più del 15% della SAU è bio. Più interessante è la questione delle filiere, dove gli agricoltori debbono riconquistare un ruolo centrale e non lasciare che altri prendano decisioni e soprattutto incassino sul fronte economico al posto loro. Qui la nuova PAC, nello specifico il PSR, dovrà essere lo strumento, ma c'è bisogno di molta azione da parte degli agricoltori, meglio se collettiva. Terzo punto, fare ancora meglio il bio in termini di impatto ambientale. Visto che è dimostrato con solide basi scientifiche che l'agricoltura biologica è lo strumento d'eccellenza per gestire l'ambiente rurale e ottenerne i servizi agroambientali di cui abbiamo disperatamente ed urgentemente bisogno, quali aria pulita, acqua protetta in qualità e in quantità, biodiversità come specie vegetali, microrganismi e specie animali, incluso gli uccelli e i pronubi, stoccaggio di carbonio nei suoli, rete ecologica e tante altre cose, ora si può investire in conoscenza per affinare ulteriormente le tecniche e quindi aumentare ulteriormente questi servizi. L'Unione infatti propone di dedicare almeno il 30% del budget per la ricerca ai temi del bio, soprattutto quelli con ricaduta ambientale. Ciò dovrà essere messo in rete con gli investimenti già previsti nella nuova PAC sui sistemi di conoscenza, ovvero ciò che attualmente in modo molto modaiolo viene chiamato ACIS, ma che fino a qualche decennio fa esisteva, ed era quella rete di scambio di conoscenze tra agricoltori, tecnici indipendenti dalle ditte dei mezzi tecnici intendo, ricercatori e chiunque avesse delle competenze utili. Il target è arrivare almeno al 25% di SAU bio, fatta bene e valorizzata nei circuiti biologici locali ma anche più larghi, entro il 2030. Possibile? Sicuramente sì, però ora gli Stati membri e le regioni ci devono mettere del loro. Oggi con il professor Roberto Zironi per la rubrica del vino ci addentriamo tra le sostanze azotate dell'uva per capirne ruoli e meccanismi di azione. Oggi prendiamo in considerazione le sostanze azotate, che comprendono sia delle sostanze organiche che delle sostanze inorganiche, che conoscono destini diversi durante il ciclo di maturazione dell'uva. Nell'uva immatura predominano l'azoto inorganico, sotto forma di ion ammonio, mentre a partire dall'invaiatura è l'azoto organico che diventa predominante. Nel frutto maturo si rileva un 60-80% di aminoacidi, un 5-20% di azoto inorganico e il complemento a 100 dato da forme organiche più complesse. Le molecole più rappresentate sono quindi gli aminoacidi, che nella fisiologia del frutto sono utilizzati per la sintesi delle molecole più complesse, quali le proteine. Nel caso della vinificazione, questi aminoacidi risultano essere importanti insieme allo ion ammonio anche nella fisiologia dei microrganismi che saranno coinvolti nei processi fermentativi. Li utilizzano infatti per aumentare la loro biomassa e quindi, se il contenuto in queste sostanze sarà ottimale, la fermentazione sarà regolare e quindi la qualità del vino sarà garantita. In caso contrario, anche il vino risentirà della carenza di questi fattori nutrizionali. La seconda classe di composti azotati sono i peptidi. Da un punto di vista chimico sono delle piccole molecole risultanti dall'unione anche di pochi aminoacidi. e svolgono delle importanti funzioni di regolazione del metabolismo. In particolare un tripeptide chiamato glutatione è un importante antiossidante che è presente in tutti i tessuti animali e vegetali e quindi anche nel frutto e residua anche nel vino, per cui la presenza di glutatione garantirà una modulazione dei fenomeni ossidativi a carico del vino durante la produzione, conservazione e commercializzazione. In particolare i vini, quali ad esempio gli spumanti o i frizzanti, questi peptidi rivestono poi un ruolo importante sulla qualità e la persistenza della schiuma. Infine le proteine. Queste molecole possono avere delle dimensioni anche notevoli e sono il risultato dell'unione di centinaia di aminoacidi. Nei vegetali hanno una prevalente funzione di regolazione metabolica perché vanno a costituire quelli che abbiamo già ricordato essere gli enzimi, cioè quelle forbici che sono in grado di tagliare, di modificare delle molecole complesse. Ma queste forbici sono anche in grado di sintetizzare delle molecole nuove. Quindi durante tutta la maturazione del frutto assistiamo ad una continua modificazione sul loro contenuto, sulle loro attività. Al momento della maturazione, dove non servono più, saranno però presenti per difendere il frutto dagli attacchi biologici sia di microrganismi che di insetti. La loro presenza nel vino è limitata e possono essere visti sia come fattori di instabilità, cioè in grado di dare intorbidamenti durante la commercializzazione, che come fattore di stabilità e anche di qualità organolettica, perché danno una piacevole sensazione di pienezza al sorso di vino. Quali e quante sono le varietà di patate? Sara Bosco per la rubrica dell'Orto ci indica le principali con le loro qualità. Oggi vorrei concludere il discorso sulle patate, in quanto di questo ortaggio ne esistono diverse varietà, ma la grande diversificazione viene fatta in funzione del colore della polpa e della buccia. In merito a questa classificazione possiamo trovare le patate a pasta gialla, che sono patate che hanno un colore della polpa intenso, compatte e a svariate preparazioni. Tendono ad essere più saporite rispetto a quelle a pasta bianca. Le patate che presentano la buccia rossa, sempre con la polpa a pasta gialla, si presentano ancora più compatte. Le patate a pasta bianca, invece, presentano un colorito della polpa più tenue e si presentano più farinose e morbide. Le patate invece a pasta viola o blu sono colture che piano piano stanno prendendo il loro posticino nel mercato. Sono delle patate particolari, che però si adattano a molte preparazioni culinarie e sono molto saporite, ottime per dare anche un po' di colore ai nostri piatti. Un'altra classificazione possibile è la lunghezza del ciclo colturale, in cui generalmente si differenziano le patate novelle dal resto delle varietà, in quanto hanno un'elevata precocità e si presentano più morbide e con la buccia sottile. Risultano essere ottime all'inizio della stagione in quanto le patate vecchie, se non conservate in atmosfere controllate, non sarebbero più idonee al loro utilizzo. Non si adattano però a molte preparazioni in quanto tendono ad essere un po' più acquose data la raccolta precoce senza la completa maturazione della pianta. Le patate perciò sono colture che si possono coltivare nei nostri orti, seguite nelle giuste operazioni durante la loro crescita, permettono di ottenere dei buoni risultati. In questo periodo ci sono anche altre colture che possono essere seminate o trepiantate, sia in tunnel freddo ma anche in pieno campo. In questo mese di aprile ci possono essere ancora dei ritorni di freddo, quindi se non si dispone di tessuto non tessuto, bisogna essere molto cauti e seminare all'esterno solo colture che garantiscano la loro sopravvivenza anche in questi tipi di ambienti, come ad esempio il pisello, la cipolla e le bietole. Seconda puntata oggi con Adriana Del Fabbro sulla storia della coltivazione del riso in Friuli Venezia Giulia. Dalla parte italiana del Friuli nel 1883 il sindaco di San Giorgio di Nogaro, Pio Antonio Ferrari, scrive: «Le risaie sono situate quasi tutte a sud del territorio in luoghi ordinariamente d'aria malsana e soggetti alle colme e ai rigurgiti sciroccali, ond'è che sono difese da argini regolate per l'influsso delle acque da opportune portelle di chiusa e di scarico. Nelle risaie sono occupate molte braccia, specialmente donne. A Malisana e Torri di Zuino all'epoca vi erano 840 campi vestiti a risaia, scesi a 360 circa nel 1903. 30 anni dopo in quell'area si producevano ancora 3.500 quintali di risone. Sul fine dell'Ottocento la contessa Rosa di Strasoldo, nei fabbricati annessi all'omonimo castello di sopra, tuttora visibile, attivò una pilatrice ad acqua per la pulizia del riso, che inviava regolarmente alla corte di Vienna, dove era di casa. Anche nella zona boscata ai limiti della laguna esisteva un'antica pileria. Altre erano native a Pocenia, a Corniolo di Porpetto, Sesto Arreghena, San Giorgio di Nogaro, Sagrado, Staranzano, Aquileia e Udine, e davano lavoro ad alcune decine di persone. Non bisogna dimenticare infine la risiera di Trieste, la risiera di San Sabba. Il fabbricato in origine fino alla fine dell'Ottocento era stato adibito alla lavorazione del riso d'oltreoceano, commercializzato nell'emporio triestino. Ma il riso non è solo cibo. Nel 1865 Luigi Chiozza, a Pertero di Ruda, fonda una mideria per estrarre l'amido anche dal riso, con oltre 100 dipendenti, dismessa completamente nel 1986. Nel 1968 l'Istat segnala ancora la presenza in Friuli di 1000 quintali di risone per una produzione lorda vendibile pari a 9 milioni di lire all'epoca. Negli anni 80 il riso si coltiva ancora a Paradiso di Pocenia, a Codroi, poi a Varmo. In quel periodo anche l'azienda Torvis di Torviscosa, di proprietà della famiglia Ferruzzi, partì con una sperimentazione che interessò 4 ettari e mezzo di terreno, seminando il riso a secco, cioè senza allagamento. L'obiettivo era mettere a punto le tecniche di produzione più adatte all'ambiente friulano, ma la sperimentazione non diede i risultati sperati e la coltura fu abbandonata. Nel 2004 si segnalava la presenza di una risaia a Pavia di Udine, di circa 2 ettari, e di un'altra più piccola conduzione biologica a Reana del Royale. Dopo alcuni tentativi non riusciti di reintrodurre nel Medio Friuli la coltivazione risicola, dal 2010 ci sta provando con un certo successo un'azienda di Pocenia. Per la giornata di domani, senza scampagnate, Roberto Zottar ci dà ugualmente la ricetta di un pane ripieno, che a occhio è ottimo, mangiato anche a casa. Buona Pasqua e buone pinze a tutti. Per domani, Pasquetta, la consuetudine ci richiama scampagnate e nell'immaginario collettivo il picnic è una tradizione che mette allegria, un bel modo per trascorrere una giornata all'aria aperta, immersi nella natura. Picnic è un vocabolo che ci è giunto dall'inglese, ma la parola d'origine era francese, pic-nic, scritto con la Q, dove il verbo piquer significa prendere, stuzzicare, e nic indica una piccola cosa. Il termine si diffuse alla fine del 1600 e indicava un pasto frugale fuori dalla formalità durante le pause di caccia dei nobili a base di alcuni semplici cibi sottratti dalla cucina. Diventò presto una sorta di trasgressione molto diffusa tra i nobili, un costume sociale apprezzato, tanto che la stessa regina Maria Antonietta divenne famosa per le sue scampagnate nei prati di Versailles. Nel secolo successivo, la pratica del picnic, non più solo riservata alla nobiltà, assunse una connotazione più romantica, associata al momento della consumazione di un pasto rilassato su un prato, magari in riva a un fiume o su una spiaggia. Ne è un esempio il famoso dipinto di Manet, Le Déjeuner sur l'herbe. La ricetta di oggi è di zia Gigia, zia di mio papà, per un pane ripieno da affettare e mangiare senza posate. Prendete un filone di pane al latte e svuotatelo completamente della mollica. Per facilitare l'operazione, il filone può essere inciso dal lato lungo. Frullate poi 150 g di tonno con 60 g di acciughe tutti sott'olio, 4 tuorli sodi e la metà della mollica estratta. Amalgamate il tutto con delicatezza a 150 g di burro montato spumoso con le fruste, 4 albumi sodi tritati, 200 g di prosciutto cotto tritato a piccolissimi dadini, aggiungete un cucchiaio di capperi e alcuni cetriolini sotto aceto tutti tritati. Profumate con 2 cucchiai di cognac e una grattugiata di scorza di limone per dare freschezza. Pepate e correggete di sale. Farcite bene il filone, ricomponetelo, richiudetelo con pellicola e lasciatelo consolidare in frigorifero. In alternativa si possono usare fette di pane da tramezzino, sia farcite una sull'altra e tagliate a quadrotti, sia farcite con una sac à poche e poi arrotolate. Si serve a fette ed è adatto anche ad un antipasto in piedi a casa. È ottimo e si può surgelare finito. Buon appetito! E come stanno andando le quotazioni dei mercati agricoli? Ce lo racconta Amos D'Antoni. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari. Venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,30 e 21,50 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,70 e 22 euro, l'orzo con peso specifico 60-63 tra 18 e 18,50 e la soia non è stata quotata. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 4,10 euro e il frumento di 1,40 euro al quintale. Passando ai buoni da macello, si rileva una leggera ripresa nelle quotazioni. Le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,30 e 2,60 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,60 e 2,30. Mentre il mercato dei vitelli da ristallo conferma le quotazioni e l'ultimo andamento accerta che i blu belga maschi vengono pagati tra 5,80 e 6,30 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,50 e 5 euro, i frisoni tra 1,30 e 1,60 e i bruni tra 1,20 e 1,40. Nel comparto suinicolo continuano spunti di ripresa e il valore dei lattonzoli di 30 kg franco partenza si fissa a 3,51 euro il chilo IVA esclusa, mentre i grassi da macello vengono pagati a 1,35 il chilo. Domanda confermata con quotazioni stabili per il montaggio fresco, compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, con marchio di qualità tra 8,20 e 8,50 e lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. In forte ribasso il prezzo del latte crudo di vacca Franco Stalla di origine Friuli Venezia Giulia. La commissione camerale di Pordenone e Udine lo ha quotato a 35 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanuto diamo un occhio al meteo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale. Si è da poco concluso il mese di marzo, per cui c'è possibile farne il bilancio meteorologico. Nelle prime due settimane ha avuto caratteristiche tutto sommato regolari, con le temperature medie in linea con la norma del periodo. Inoltre si è assistito al passaggio di un paio di fronti, che hanno portato delle precipitazioni in genere moderate. A seguito del secondo fronte, passato il 14 marzo, è affluita aria fredda per una decina di giorni e in pianura ci sono state parecchie gelate. In seguito le temperature sono risalite decisamente, in particolare a fine mese, toccando localmente i 25-26 gradi in pianura come temperatura massima e andando ben oltre i 20 gradi nelle valli, valori in linea o di poco superiore ai record storici di marzo. Per quanto riguarda le precipitazioni, il mese è stato decisamente secco, con soli 2-3 giorni di pioggia invece dei soliti 7-8 e un deficit idrico di 70-80%. Fino a domani sera avremo tempo discreto, con cielo in genere poco nuvoloso. Nella notte tra lunedì e martedì giungerà un deciso fronte freddo, che porterà precipitazioni moderate a ovest, abbondanti a est e sulla costa, anche temporalesche. Quota neve in rapido calo, fino a 300 metri circa, ma possibile temporaneamente anche a livello del mare. Soffierà bora forte e fredda sulla costa, in pianura e sui monti, vento sostenuto dal nord-est. Dal pomeriggio miglioramento a partire dalla Carnia, dalla tarda sera possibili gelate anche in pianura. Se durante la notte infatti non ci saranno velature, mercoledì mattina potranno esserci delle locali intense gelate in pianura con valori minimi anche di meno 4 gradi. In giornata avremo variabilità, ma poi nella notte successiva potranno esserci altre gelate seppur meno intense. Giovedì cielo sereno o poco nuvoloso, con correnti settentrionali più secche. Nei giorni successivi potrebbe rimontare l'anticiclone africano con aria più mite in quota. Fino a sabato e forse anche domenica l'atmosfera rimarrà più stabile e asciutta. Come sempre vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Domenie cu l'ulif, ogni uccel il suo nido, ovvero a Pasqua, la domenica con l'ulivo, ogni uccello ha già pronto il suo nido. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto e Marco Rasi. Il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Auguro Dandovi ancora buona Pasqua. Avete ascoltato? vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.